9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, questo 21 di luglio, come preavvisato nel lancio, ci occupiamo di un tema che io vi inviterei caldamente a riflettere prima di decidere nei primi minuti, ma magari non mi riguarda perché non sono di Milano. Non è così, è vero, oggi parleremo del piano di governo territoriale di Milano, che è stato approvato in consiglio comunale dopo mesi di confronto tra le parti. Lo faremo qui con l'assessore allo sviluppo del territorio del comune di Milano, che è in studio con noi, Carlo Masseroli. Buongiorno assessore. Buongiorno. Ma il motivo per cui ho deciso di parlare di questo piano è non solo per approfondire i principi ispiratori, i meccanismi di attuazione, quali sono le novità di questo strumento di governo urbanistico rispetto al passato di Milano e in vista del suo futuro, ma in realtà perché questo strumento, per come è concepito, in realtà per come anche la legge regionale lombarda, sapete che gli strumenti di pianificazione sono diversi in Italia perché di regione in regione c'è un modello diverso a cui fare riferimento. In questa regione, per la legge regionale di settore, è possibile avere, dal mio modestissimo punto di vista, lo dico assumendomi la responsabilità, degli strumenti di indirizzo urbanistico e di sviluppo. A me non piace la parola pianificazione, apposta per questo, siccome non mi piace la parola pianificazione, credo che sia una lunga deriva di errore quelli che abbiamo alle spalle nei decenni, che ci deriva da una mentalità, quella positivistica, quella che ci faceva immaginare di essere capaci di immaginare fino all'ultima cifra, proiezioni alla mano di sviluppo demografico, gli assi di inurbamento, le direzioni nelle quali il politico e l'amministrazione pubblica sotto di lui decidevano a tavolino cosa si riempiva e cosa restava vuoto. E in questo esercizio pianificatorio, che naturalmente coinvolgeva i grandi studi urbanistici, i grandi nomi dell'architettura, eccetera, eccetera, abbiamo consumato per decenni una illusione, come sempre quella pianificatoria, perché poi in realtà i fatti dimostravano che lo sviluppo, da quello demografico agli assi di addensamento, vanno sempre da tutt'altra parte rispetto a quello che immaginavano i politici e i demografi. Pensate che solo 20 anni fa si pensava che a Milano oggi ci sarebbero state più di 2,5 milioni di persone, ce ne sono 1,8 milioni. Questo per dire quanto la realtà è diversa dai numeri della pianificazione. Allora, siccome a Milano, che è l'asse e il centro urbano più importante, non solo per il reddito che produce d'Italia, che pensi Roma, ha questa caratteristica, e è stato possibile impostare un strumento di governo con caratteristiche che a me sembrano nuove, la mia opinione è che valga la pena che voi restiate in ascolto per capire se e come la cosa vi convince, anche se non siete a Milano o magari non immaginate di venirci a vivere, perché ci sono alcune questioni che riguardano tutte le grandi realtà urbane italiane. Noi viviamo un territorio in cui il 78% dei centri urbani è praticamente immodificabile perché vincolato, abbiamo dovunque un problema di verde, o quasi, tranne poche realtà urbane che non hanno questo problema. Nella media la nostra è un territorio molto consumato, troppo consumato, e questo riguarda tutti i centri urbani. C'è dovunque un problema di infrastrutturazione e di assi viari e di ritorno in qualche misura al ferro negli spostamenti intorno alle città e nelle città, e c'è in tutta Italia, tra gli altri, un problema, oltre a quello della tutela ambientale, che riguarda la scarsa capacità del mercato, per come è organizzato, di offrire alloggi a quel segmento particolare, anzi a quei segmenti particolari di cittadini che hanno basso reddito disponibile, o perché sono a un punto della vita in cui stanno investendo sul proprio capitale umano e quindi non hanno ancora un reddito di ritorno dalle attività di lavoro, gli studenti, tanto per dirne una, oppure perché comunque appartengono a segmenti della popolazione che hanno basso reddito disponibile, e quindi c'è anche il problema dell'housing sociale. Allora, rispetto a tutto questo e infilando tutte queste priorità, tentiamo di capire come e se il piano di governo del territorio di Milano può rappresentare, e la mia modesta opinione è che può rappresentare, un valido spunto per capire come cambia e può cambiare uno strumento molto importante nelle mani della politica, che è quello di dire nei prossimi anni si può fare nelle città così invece che cos'ha. Ecco, l'ho detta in termini non tecnici, apposta nel tentativo che vi possa interessare meglio. Allora, fatta questa premessa, assessore Masseroli, spiega un pochino perché dal suo punto di vista i 4 o 5 punti su cui la sua soddisfazione è massima, perché rispetto al passato c'è stata una rottura di continuità. Intanto grazie dell'invito e anche dell'introduzione, che tocca ambiti veramente interessanti. Beh, tutta la vecchia impostazione urbanistica si fondava sul vincolo, cioè sul fatto che il comune dovesse decidere prima di per i prossimi, per i futuri, per i successivi 20-30 anni cosa dovesse accadere nelle aree. A Milano si era pensato 30 anni fa che dovesse rimanere l'industria, si bloccò tutta la città, ambiti della città molto importanti di industria, fatto sta che le industrie sono tutte uscite e quindi modificare quelle aree per non farle più essere industriali è stato un percorso veramente complesso. Altro tema su cui si basava la pianificazione era il numero di persone. Quante persone abiteranno a Milano? Si diceva 2 milioni, 2 milioni e 100 a suo tempo nel vecchio piano urbanistico milanese. Oggi ne abitano un milione, ne sono residenti 1 milione e 3. Di fatto l'esercizio di inventare quante persone possono abitare in una città è un esercizio assolutamente inutile. Metti 10 persone, 10 esperti di questo tema, diranno 10 numeri diversi e saranno tutti sbagliati. Perché? Perché la gente è libera. Io liberamente decido se abitare a Milano o no e lo decido in funzione di alcuni elementi, di alcuni di alcune attese che ho nei confronti della mia città. Ecco, il nostro piano, invece che partire dai vincoli, invece che partire dal numero di persone che dovranno abitare la città, è partito dalle attese che la gente ha. Abbiamo cercato di capire che cosa vogliamo e che cosa vuole la gente. E allora abbiamo preso alcune decisioni forti. Quindi il grande tema non è più il vincolo e la sfiducia nel confronto del privato, ma il grande tema di riforma di questo piano è la fiducia nel privato e la regia pubblica. Come si manifesta la regia pubblica? Non più attraverso il vincolo, ma attraverso l'individuazione di alcune regole forti, da rispettare poche regole, e di alcuni punti pragmatici che Milano, come altre città, deve comunque considerare e tenere presenti. Il primo pilastro del nostro piano è stato il non consumo del suolo. È una discontinuità rispetto agli ultimi 50 anni della nostra città, ma dico di tutti gli sviluppi urbani italiani. È una discontinuità che abbiamo visto anche riconoscere da altre città a livello internazionale. Cosa stiamo dicendo? Milano ha un grande parco, 40 milioni di metri quadri, un parco che la gente non conosce, il Parco Sud, perché è sempre stato concepito come il passo successivo da consumare per costruire la città. Abbiamo detto lì non si costruisce più. Gli ultimi 50 anni dicevano si costruirà l'anno prossimo. Dando che cosa? Dando disponibilità agli agricoltori che ci sono, Milano è piena di agricoltori nel sud Milano, di investire rispetto alla loro produttività per i prossimi 20 anni invece che nei prossimi 2 anni. Quindi ipotesi di lungo periodo. Abbiamo anche deciso che lì sarebbe inopportuno realizzare case senza avere l'infrastrutturazione. Questo genererebbe che cosa? L'utilizzo delle auto, che quindi congestionerebbero ancora di più la città già al collasso. Quindi l'altro caposaldo del nostro progetto urbano è si costruisce dove c'è già costruito e le ambiti cittadini che sono degradati, lì bisogna rifare la città. E quindi addenseremo lì le realizzazioni, ma lì faremo anche parchi. Quindi altro grande tema, nella città saranno costruiti 20 nuovi parchi. Là dentro, in questi grandi ambiti, ci sarà spazio in aree private. Abbiamo generato delle condizioni affinché nelle aree private si possa realizzare l'housing sociale, con un programma di housing sociale, appunto di case per chi ha bisogno, che non si vedeva a livello nazionale. Saranno circa 30.000 alloggi realizzati nei prossimi 20-30 anni, che non si vedeva, penso, da qualche decennio. Quindi infrastrutturazione dove ci sono le urbanizzazioni insieme. Non si può più costruire dove non ci sono i mezzi pubblici su ferro. Non si consuma suolo, si realizzano parchi nelle aree oggi consumate, oggi che sono degradate, i vecchi scali per Milano, Bovisa, insomma ce ne sono tante di queste aree, ce ne sono una ventina. Altro grande tema per Milano, e non parlo più, è la questione dei servizi. Milano ha bisogno di servizi come tutte le città, però Milano ha una grande caratteristica, è la città del volontariato, non a caso, non è una frase detta per riempirsi la bocca, lo è perché ci sono associazioni di volontariato. Oggi queste associazioni, che sono in grado di fornire servizi dalle scuole al sostegno del bisogno diffuso nella città, oggi non hanno spazi per fare quello che vorrebbero fare. Allora noi abbiamo generato delle condizioni affinché gli spazi per queste realtà siano gratis. Fino adesso hanno ricevuto una porta in faccia queste grandi realtà di cui tutti si riempiono la bocca, oggi metteremo finalmente tappeti rossi. Assessore, io traduco l'immediata cosa che vedo negli SMS. Quando nelle caratteristiche di fondo, nell'illustrare le svolte, come può fare in pochi minuti un assessore di un piano che in realtà è un documento molto impegnativo, pieno di allegati, pieno di novità, lei dice noi abbandoniamo l'atteggiamento del passato, cioè la decisione pianificatoria basata sui vincoli di volumetria, e non condividiamo più rispetto al passato la sfiducia verso il privato, a casa iniziano immediatamente ad accendersi le luci d'allarme. Allarme rosso, l'assessore ci sta dicendo: amicizia per i privati uguale interesse e patto con i costruttori, dice niente vincoli, quindi ognuno è libero di fare quello che vuole. Tra l'altro, di queste ore la notizia che la magistratura ha sequestrato, ha messo sotto sequestro i cantieri di Santa Giulia a Milano, perché c'è una falda freatica, dicono i magistrati, sospetta. Io sono dell'idea che prima di sequestrare tutto bisognerebbe andarci un po' più cauti. Comunque, detto questo, quindi sono temi roventi. Allora, vogliamo spiegare un pochino in cosa consiste questa cosa e perché? Cosa che a me colpì all'inizio, perché io stesso ero scettico all'inizio, io ho passato alcuni mesi a guardare bene le carte. Mi colpì all'inizio che alcuni grandi costruttori a Milano, faccio nome perché i miei ascoltatori sono abituati, il gruppo Ligresti all'inizio non gli piaceva mica questa impostazione. Allora io non capivo, perché dico: perché il gruppo Ligresti, grande gruppo di costruzione, storico, con qualche problemino finanziario, a dire la verità, ma se non gli piace questa cosa, allora vuol dire che c'è qualche cosa evidentemente diverso da come vi sembra a casa. Ecco, allora in cosa consiste questa impostazione? Allora, mettiamola così. I vincoli finora su cui si basavano i piani sostanzialmente andavano a definire dove si poteva costruire e dove no, e quindi a tavolino si diceva chi era fortunato, diciamo così, e chi non lo era, cioè a chi il comune dava fortuna e a chi non la dava. Seconda cosa, il vincolo finora ha funzionato poco, nel senso che la gente della città è piuttosto scontenta di come la città si è sviluppata. Detto questo, quindi bisogna dare una discontinuità. Allora, le leggi a livello nazionale come a livello locale sono scritte spesso e volentieri, anzi quasi tutte, per fare in modo che chi vuole eludere le leggi, non le vuole usare, faccia fatica a scantonarle. Cosa accade? Che quel 5%, diciamo così, che vuole evitare di utilizzare le leggi, quindi vuole in qualche modo non rispettare le regole comuni, ce la fanno a rispettarle perché si impegna tutto il tempo a trovare il percorso per evitare di rispettarle. Il 95% delle persone normali, delle persone che fanno anche come mestiere l'imprenditore, il costruttore, intorno a cui l'economia del paese si sviluppa, l'economia cittadina si sviluppa, questo 95% è sostanzialmente bloccato perché non è capace, grazie a Dio, di eludere le regole, non le vuole eludere soprattutto. E le regole sono scritte in modo talmente difficile da interpretare che uno non si muove più, ci mette 10 anni a fare un progetto e la città non si sviluppa, la gente non lavora e la città rimane indietro e poi tutti si lamentano. Allora io dico: poche regole certe in cui la regia pubblica si esprime in modo forte, verde, infrastrutture e servizi, ciò di cui la gente ha bisogno. Noi non saremo misurati su quanti metri quadri di cemento faremo. La gente verrà a Milano, abbiamo chiamato il nostro piano Milano per scelta, se troverà ciò di cui ha bisogno, se troverà Milano corrispondente alle aspettative che ha, se troverà la casa a prezzo accessibile, se troverà il parco per portare i bambini, se troverà le aree non inquinate, ovviamente. Perché laddove invece c'è qualcuno che non rispetta la legge, lì bisogna essere durissimi. Quindi i controlli vanno fatti fortissimi e chi sbaglia deve pagare per tutti, cioè deve pagare perché le regole siano mantenute come riconoscibili e vere. Ma noi non saremo misurati sul fatto che c'è un metro quadro più o meno di cemento, ma se la gente trova i servizi, le infrastrutture per muoversi. Allora, per fare questo, noi dobbiamo mettere una regia forte e far sì che in un patto pubblico-privato le trasformazioni private costituiscano un tassello dello sviluppo pubblico. Io col privato faccio i parchi, io col privato faccio le infrastrutture, io col privato faccio i servizi e controllo che il privato rispetti quelle poche regole che do. Oggi ho miriade di leggi, chi le vuole eludere ci riesce e fa delle cose pazzesche perché si impegna a eluderle. Chi non le vuole eludere, il 95% dicevo, quelli sono bloccati e la città si blocca, lo sviluppo si blocca, la gente non lavora, la gente non mangia, l'economia ha un problema. Allora, ci ha raggiunto telefonicamente Carlo Cerami, consigliere della Fondazione Cariplo. Naturalmente uno strumento di governo urbano come questo ha un processo di consultazione che è aperto a un'infinità di soggetti, quindi non stiamo parlando solo di tutti i soggetti, gli operatori del mercato, attivi dalla più grande alla più piccola impresa, dalle imprese cooperative ai grandi gruppi, stiamo parlando poi di tutto il fittissimo tessuto di imprese come c'era la Asso Lombarda, le banche, le fondazioni bancarie e così via. Quindi stiamo parlando di un processo che deve tenere presente intorno a uno strumento che nasce per vivere alcuni decenni, per essere operativo. Se funziona più di due decenni, è ovvio che bisogna tessere un ordito molto, molto fitto. E tra questi gli soggetti, naturalmente, ci sono le grandi fondazioni, anche bancarie, che insistono su Milano, quindi la Fondazione Cariplo. Poi, Cerami, chi chiedo, tra le altre cose, oltre alla sua opinione generale sugli elementi di novità di questo strumento, se lo convincono o meno, una riflessione in particolare sugli aspetti poi sociali, che sono quelli a cui anche le fondazioni bancarie sono istituzionalmente tenute. Come sapete, una parte del patrimonio va in impieghi territoriali a sostegno di cultura, ma anche di impegno sociale. Milano era, per esempio, un classico esempio rispetto ai prezzi medi delle aree a Milano, che sono molto redditizie, in cui ovviamente l'offerta di mercato, l'impresa di costruzioni, perché a Milano avrebbe mai dovuto fare housing sociale o case rivolte a una redditività bassa? Perché col prezzo medio delle aree qua nessuno è in grado di farlo, diciamoci la verità. Questo è uno dei classici esempi in cui si dice poi fallimenti del mercato. Bene ha ragione, perché quando la redditività è così elevata, voi capite che destinare un'area a chi può pagare poco d'affitto, insomma, allora ci vuole un elemento nuovo. In questo elemento lo vedremo poi meglio con l'assessore, perché l'housing sociale è così importante, ma attraverso quale forma si realizza. Però mi interessava capire su questo punto in particolare che ne pensa Carlo Cerami. Prego, Cerami. Sì, pronto. Buongiorno e un saluto a voi e agli ascoltatori. Un primo giudizio generale che mi ha chiesto sul piano di governo del territorio è un giudizio positivo. Innanzitutto, per dare una valutazione corretta, secondo me bisogna riconoscersi nei principi ispiratori di un piano di governo del territorio. Il piano di governo del territorio è uno strumento generale che appunto deve fare un'analisi adeguata e aggiornata di quelli che sono i problemi del territorio, della società dentro la quale operano gli operatori economici, ma anche vivono i cittadini, e poi vedere se gli obiettivi che ci si è dati sono obiettivi nei quali si possa riconoscere. Ora, a me pare che tutto sommato la valutazione su che cosa non ha funzionato a Milano negli anni passati è stata molto schietta e anche molto cruda da parte del nuovo assessore e più in generale dell'amministrazione. E c'è stato un cambio di strategia, anche politica, se è consentito dire, rispetto a quella che è stata la stagione passata degli anni 90, dove lo scontro era prevalentemente tra chi voleva favorire il privato e chi voleva invece irrigidire le regole del privato a favore del pubblico, uno scontro che spero sia ormai alle nostre spalle. Proporsi l'obiettivo di una città più vivibile, più efficiente, più attrattiva, che sono le grandi parole d'ordine di questo piano del governo del territorio, mi sembrano obiettivi condivisibili e che vanno sostenuti. E poi ci sono le scelte specifiche che sono altrettanto importanti, in particolare l'idea di densificare e rinnovare il tessuto abitativo esistente, cioè laddove ormai la mano dell'uomo ha già trasformato ciò che esisteva un tempo e quindi è già città dove le persone vivono e operano, e dall'altro cercare di riqualificare gli spazi pubblici, difendere le aree agricole che stanno all'intorno della città. A me paiono tutti obiettivi condivisibili, insieme adesso l'idea di una infrastrutturazione più forte, quindi una Milano più accessibile, dove le persone si possono muovere con più facilità, con più agilità. Quindi dentro questo quadro, ovviamente poi le scelte tecniche possono essere discusse, io per carità non voglio in questo momento entrare in quella logica, però in via generale mi sembra coraggiosa l'idea di avere cambiato il parametro culturale dello strumento urbanistico che noi abbiamo di fronte ai nostri occhi, e quindi valutarlo con gli occhiali del passato, a mio avviso, è sostanzialmente sbagliato. Poi c'è un tema specifico che a mio avviso si inserisce in un quadro di ragionamento che riguarda anche la crisi economica mondiale, la crisi finanziaria che ha riguardato anzitutto il settore delle costruzioni e delle grandi società immobiliari, e tutti i giorni ne abbiamo una testimonianza. Continuare a pensare che si possa procedere come nel passato attraverso fenomeni, diciamo, di moltiplicazione di valori aggiunti virtuali, senza cioè che alle transazioni economiche corrispondano delle vere e proprie situazioni fisiche, quindi le attività costruttive, mi sembra assolutamente sbagliato, perché se noi giriamo oggi per le città del nostro paese, e Milano è tra queste, vediamo e assistiamo a una evidente crisi del mercato immobiliare privato e a un rilancio invece delle strategie che riguardano la città pubblica, le infrastrutture. Non facciamoci ingannare dal fatto che City Life o Garibaldi Repubblica proseguono nonostante la crisi, ma perché lì ci sono dei grandi investitori le grandi istituzioni finanziarie, le grandi assicurazioni che hanno fatto un investimento, diciamo così, di lungo periodo e quindi sono sufficientemente forti per poter portare avanti. E comunque anche esse, per chi fa cronaca finanziaria, insomma, sappiamo che i programmi si sono diluiti, ci sono state procedure richieste dalla magistratura anche lì, quindi insomma c'è la sostenibilità finanziaria di quei progetti anche di grandissimi gruppi è stata investita pesantemente, insomma, quindi nessuno fa eccezione. Dottor Giannino, è che insomma oggi quello che deve tornare in campo protagonista è la parte pubblica, non con un approccio diciamo statalista, come diceva bene l'assessore poco fa, per cui il pubblico deve essere insieme programmatore, regolatore, costruttore e persino colui che assegna la casa al cittadino, ma con un approccio nuovo dove si cercano di mettere in una virtuosa relazione le risorse private, si cerca di costruire insieme in una partnership tra pubblico e privato quello che dovrà essere il modello della nuova città. Ecco, le faccio un esempio per arrivare al mio tema, per non farla lunga, il tema della casa. Già avere affrontato questo tema dal punto di vista, diciamo, del servizio di utilità generale, non semplicemente del bene oggetto di investimento da parte del mondo privato, è un cambio di paradigma culturale che, come si può agevolmente capire, facilita l'affluenza di risorse finanziarie in una direzione, quella del mercato immobiliare low cost, quella del mercato immobiliare, diciamo, che si inserisce all'interno di un quadro economico mutato e quindi si rivolge a categorie di ceti meno abbienti e non capaci di far fronte ai prezzi come li abbiamo conosciuti fino ad oggi, anche questo rappresenta un elemento di novità fortissimo. Cerami, cosa garantisce secondo lei che questo approccio sarà capace di offrire quei 30.000 alloggi e che non si tratti quindi, per così dire, di una nobile intenzione, ma che poi negli strumenti attuativi non verrà tradotta? Che cosa in concreto e in breve secondo lei è il cambio di passo sull'housing sociale? Guardi, il cambio di passo sull'housing sociale avviene per almeno due ragioni prevalenti. La prima è che vengono messe in gioco aree di proprietà pubblica e aree con destinazioni urbanistiche che impediscono la loro valorizzazione, diciamo, dal punto di vista della rendita fondiaria. Perché questo piano di governo del territorio ha un grande vantaggio che trovo strano non sia stato sottolineato adeguatamente dalle forze politiche che hanno, diciamo, ragionevolmente una propensione a contestare la rendita fondiaria, e che quando si utilizza il meccanismo della perequazione, quando si mettono in gioco le aree pubbliche, le aree private naturalmente perdono quella capacità di essere le uniche, diciamo così, destinatarie di previsioni di sviluppo della città. E questo meccanismo è un meccanismo che viene introdotto in maniera molto forte in questo piano di governo del territorio, tanto che appunto vengono messe in gioco possibilità realizzative sino a spingersi al punto che il privato, che deve costruire delle grandi realtà anche di tipo privato, è costretto in qualche modo a predisporre il progetto in modo che una parte di queste aree vengano destinate ad uso pubblico. E il secondo aspetto che la convince, che renderà l'attuazione possibile di questo impegno, secondo lei, in breve? Ma è quello del mix sociale. Cioè, vede, il problema delle case low cost è sempre stato quello che non consentivano guadagni facili. Esatto. Ecco, però se noi ragioniamo intanto con gli occhiali di oggi, dove, diciamo così, i margini di profitto non possono che essere ridotti rispetto alla stagione del boom e alla stagione della bolla immobiliare, ma se poi si comincia a guardare concretamente le migliori esperienze europee, si noterà che le case a prezzo basso sono costruite sostanzialmente in modo molto simile alle altre, mescolate insieme al tessuto urbano. Allora, l'idea di favorire questo mix abitativo fa sì che alla fine qualunque operatore che si rivolge a un mercato ampio sia interessato lui stesso a produrre un'offerta di abitazioni che si rivolge non solo, diciamo, al ceto medio benestante, ma anche a quelle categorie che si affacciano al mondo del lavoro, che hanno problemi anche di carattere bene, sociale. La devo interrompere, grazie a Cerami. Quindi, insomma, l'obiettivo è che nell'interesse stesso dell'offerta evitare banlieue, ghetti e dare a insediamento la cui bassa redditività identifica però gli occhi nel panorama urbano e della produzione e poi della densità dei problemi sociali l'area di degrado. Ecco, questo è ovviamente, qui c'è l'esperienza di grandi città estere essere a cui guardare, ed è un'esperienza ovviamente di errori da cui guardarsi, che sono errori anche nella mentalità di progettazione dell'utilizzo del territorio, prima ancora che nella concreta offerta di tipo di edilizia residenziale abitativa. Ora, la pubblicità, perché siamo un po' indietro, dobbiamo recuperare tempo, dobbiamo naturalmente sentire anche poi chi ha le obiezioni dell'opposizione, perché altrimenti poi da casa mi si dice che sto facendo il monumento a Masseroli. Povero Masseroli invece di fronte a me, vi garantisco, dice: non mi fai parlare. Così, tornati in studio, siamo a parlare del piano governo del territorio approvato in consiglio comunale dopo un confronto che è durato più di 162 ore e 14 minuti da dicembre, da quando è iniziato. Naturalmente non è l'approvazione finale, spieghiamolo, gli strumenti di governo urbano di questa complessità, assessore, hanno un iter tale per cui bisogna aspettare ancora parecchio. Quanto tempo? 5 mesi, ci sono adesso 2 mesi, settembre-ottobre, per le osservazioni dei cittadini, poi altri 3 per rivotare in aula definitivamente il piano. Questo è importante per voi che ci state ascoltando, vi siete soprattutto a Milano, per le vostre osservazioni, come si può fare? Perché chi è a casa a Milano vuole capire, eccetera, e dare osservazioni. Allora, da settembre noi ripubblicheremo il piano così come modificato in aula e tutti i cittadini potranno averlo. C'è un sito che si chiama www.milanoperscelta.it, che è il sito del piano, dove trovate tutti i documenti di cui avete bisogno. Adesso via via avremo le bozze delle risistemazioni fatte durante, a causa degli emendamenti in aula. A settembre sarà pubblicato in modo definitivo, faremo anche un'assemblea pubblica e ci sarà poi la possibilità per tutti, attraverso questo sito o venendo in comune, per fare le proprie osservazioni sul piano. Due mesi di tempo andranno per queste osservazioni di tutti i cittadini indistintamente, chi vuole può farlo, e dopo ci saranno ulteriori 3 mesi, appunto, come dicevo, per votarlo definitivamente. Perfetto, sentiamo dopo aver sentito quella di Carlo Cerami, consigliere di Fondazione Carlo, proprio le voci di chi il Consiglio Comunale in questi mesi ha animato il confronto con l'assessore e con la Giunta. E quindi iniziamo con Enrico Fedrighini, che è capogruppo dei Verdi al Consiglio Comunale di Milano. Insomma, giudizio complessivo, Fedrighini, su questo PGT? Ne è uscito fuori anzitutto un quadro di regole. Milano ha bisogno di avere delle regole, non possiamo permetterci di andare avanti con tutto quanto poi la cronaca sta facendo emergere in questi giorni, in una situazione di indeterminatezza da un punto di vista di regole di governo del territorio verso Expo, eccetera eccetera. Il nostro è stato un voto alla fine negativo sul piano, perché mantiene delle criticità, ma è stato un voto di non rottura, ma un voto che ha consentito di procedere secondo le procedure normali democratiche, cioè c'è un'adozione, la città viene coinvolta in quello che è un momento molto importante di partecipazione. Da parte dell'opposizione è prevalsa, io credo ragionevolmente nell'interesse della città, un atteggiamento responsabile nei confronti della città. Federighini, cioè, posso chiedere una cosa? Perché l'assessore spesso, sì, nei mesi ha sottolineato come a suo giudizio, sì, poi di fronte a me mi può smentire, ma insomma, a suo giudizio l'atmosfera che si è creata al Consiglio Comunale, sì, che ha caratterizzato più del confronto, era un'atmosfera, diceva l'assessore, sempre molto positiva, mi fa molto ben sperare. Non è la questione votate sì, la questione era ci stiamo confrontando sul serio, sui cardini e punti fondamentali. È stato davvero così anche secondo voi? Assolutamente sì, è stato un percorso forse ancora più importante, adesso non vorrei esagerare, ma di avvicinamento di culture, di confronto sulle cose, di, come dire, smessi gli abiti da battaglia che purtroppo molto spesso ingessano ancora la liturgia politica nelle sedi ufficiali. In quella stanza, in quella camera abbiamo discusso, avendo come ognuno di noi, in base alla propria cultura, sensibilità, ci mancherebbe, come riferimento l'interesse comune, e questa è stata una cosa molto importante di cui vado orgoglioso. Dovesse dire, da un suo punto di vista, l'elemento di criticità sul quale meno poi è rimasto soddisfatto? Stiamo parlando dei grandi problemi, ovviamente, non dei punti tecnici, che sono tantissimi. Io credo che siano gli stessi che l'assessore ha ben presente, cioè questo PGT, per il modo sicuramente nuovo in cui vede l'azione del pubblico, dell'amministrazione locale al centro e non come semplice spettatore che si limita, come dire, a mettere i retini con le destinazioni e poi sta a guardare quello che succede o fa varianti. No, io credo invece che debba avere un ruolo, ci credo, ma ci sono due elementi centrali. Anzitutto un rafforzamento fondamentale della struttura di piano, e cioè Milano deve dotarsi di quelle, vuol dire risorse, vuol dire investire. Il lavoro straordinario che hanno fatto i funzionari tecnici credo che vada riconosciuto, ma paradossalmente questo piano prevede un interventismo, un ruolo attivo del pubblico per il bene della città molto più forte che in passato, e dobbiamo dotarci, altrimenti la scommessa si perde. Il secondo aspetto molto importante è che anche questa è una sfida nuova, la perequazione, sempre rimasta a livello di dibattito accademico e adesso applicata finalmente, un principio importante, ma anche qui devono essere fatti dei passaggi e degli affinamenti molto importanti. Io ringrazio Fratellini, vorrei semplicemente che l'assessore spiegasse un secondo meglio, perché secondo me, io scommetto chi a casa la perequazione non ha capito ben precisamente che cos'è, punto numero uno. Punto numero due, non abbiamo ancora, secondo me, ben sottolineato che uno degli aspetti a me personalmente piace di più di questa impostazione dei principi di fondo è quello anche della sussidiarietà, cioè il pianificatore dall'alto che vede ed è smentito poi dai numeri che ha e dal fatto che il corpo vivo dei mercati, della vita di ciascuno, delle scelte di ciascuno vanno in un'altra direzione imprevedibile, deve anche a quel punto adottare un'altra visione che non è più quella del dall'alto in basso, ma è dal basso verso l'alto. Quindi qui c'è un approccio che parte dalla ricostruzione intanto di quello che c'è sul territorio. Quello che c'è non è solo pubblico, è un'offerta di servizi anche privata. Ridisegna, perché verifica tutto ciò quello che c'è in una città intorno a nuclei, qui ne hanno trovati 88, e su quello consente all'offerta di dire: guarda, qui ci sarebbe quello che io vorrei fare in quest'area e in quell'altra. E la parte pubblica dice, non è che abdica, dice: attenzione, perché qui c'è una densità di questo servizio, ma manca quello tra pubblici e privati. Mettiamoci d'accordo rispetto alle volumetrie e alle tipologie, perché se tu mi fai servizi in più rispetto a quello che proponi di fare, allora io in cambio faccio. Questo è un po' tradotto in concreto. Però la perequazione che cos'è, assessore? Allora, ha toccato due temi che sono certamente essenziali di questa riforma. Il primo, la perequazione, molto semplicemente: noi abbiamo bisogno di aree anche private per far sì che il piano si realizzi. La proprietà di molta parte del Parco Sud è privata, la proprietà di aree su cui vogliamo fare dei parchi è privata, la proprietà di aree su cui vogliamo fare delle strade è privata. O privato o di pubblici diversi dal comune. Questi hanno nella storia del piano regolatore anche diritti a costruire là sopra, oppure diritti che si aspettano. Allora, cosa abbiamo deciso? Di far sì che quelle aree diventino di proprietà pubblica, non attraverso un esproprio che bloccherebbe il sistema attraverso contenziosi lunghissimi, ma consentendo a chi ha queste proprietà di costruire altrove, cioè di costruire dove la città invece ha bisogno che si costruisca, vicino alle infrastrutture, nelle aree degradate, eccetera. Quindi chi ha un'area che serve al comune, ad esempio Parco Sud, la cederà al comune, potendo costruire nei punti in cui il comune dice che si può costruire. Questo è lo strumento della perequazione. Perequazione che poi avrà anche delle funzioni più di dettaglio, ma di cui oggi non parliamo. Altra questione è quella della sussidiarietà, eccezionale per quel che mi riguarda, è uno dei temi fondanti. Abbiamo diviso la città in 88 quartieri. Il Consiglio Comunale deciderà, voterà, anche in funzione di un sistema informativo che stiamo mettendo in piedi, quali sono le priorità di bisogno in quel quartiere. Quando un operatore privato realizza una trasformazione, con questa porta dei servizi. Quali servizi porta? Porta i servizi che lì sono stati indicati come prioritari, non quelli che si pensano all'ultimo momento, non quelli che vuole lui, non quello che vuole un ufficio del comune che passa di lì in quel momento e non sa neanche perché, ma quelli che il Consiglio Comunale ha votato intorno anche a valutazioni statistiche e precise. Chi gestirà quei servizi? Per ognuno di ciò che, per ogni funzione che rappresenta un servizio, stiamo mettendo in piedi un sistema di accreditamento. Allora, quando l'operatore progetta l'asilo, non progetta l'asilo qualsiasi che poi arriva a chi deve gestire e dice: lo vorrei fare in un altro modo, ma può scegliere dalla lista accreditata dal comune attraverso bando e può scegliere nell'elenco dei servizi di cui c'è bisogno quello prioritario, ad esempio l'asilo. Quindi scelgo l'asilo perché il consiglio l'ha detto, scelgo quella realtà perché è stata accreditata, con questa progetto il servizio che non consuma volumetrie, perché così abbiamo detto, e quindi ha un costo di affitto sostanzialmente prossimo allo zero. Questo è un principio di sussidiarietà applicato, totalmente nuovo a livello nazionale, che va sperimentato, ma in cui noi crediamo che si riducano i tempi di realizzo e si renda efficace la proposta di servizio pubblico fatto dal privato, di cui Milano è piena. Allora, Antonello da Milano abbiamo in linea. Antonello, prego. Sì, buongiorno. Innanzitutto io sono un abitante di Milano Santa Giulia, ma in questo momento non è che voglio entrare nel merito con l'assessore Masseroli, che oltretutto ringrazio perché ci ha quindi lei è un sequestrato in termini sequestrato, sì. Esatto, quello che voglio capire è che è bellissimo, io approvo in pieno, anche se sono un elettore dall'altra parte, il piano che stanno mettendo in piedi, perché Milano ha bisogno di regole. Ma quello che voglio capire è se tutte queste regole poi non sono sottoposte effettivamente a un controllo da parte degli organi istituzionali, siamo sempre lì alla fine. Se non c'è un controllo forte, benissimo dare in mano ai privati, e sono bellissimo non fare la lotta al privato ma coinvolgerlo, però bisogna che ci sia un controllo forte da parte delle istituzioni, perché sennò cioè traduco, altrimenti io poi compro e mi trovo con una cosa che non vale niente, perché se la magistratura interviene dopo che ho comprato, no, ma per capire meglio il suo dramma, perché esatto. Lei è fin troppo rispettoso, per così dire, di chi ascolta, perché no, io mi metto nei suoi panni e io starei urlando, non è il luogo per lo dico io al posto suo, ecco, diciamo che io se avessi mobilizzato una parte del patrimonio quando mi arriva il sequestro della magistratura dico e adesso con chi me la piglio, ecco, ma anche perché io non ho fatto un investimento a scopo di lucro, ma è un investimento per viverci, capisco e vorrei vivere in un posto sano, non in un posto dove c'è dentro di tutto, in un posto poi dove non c'è la magistratura che arriva e ci fa scoprire dopo quello che probabilmente forse uno ha il diritto, se compra, di dire no, basta che sia tutto chiaro, che le regole siano rispettate, che ci sia chi è chiamato a farle rispettare e che il privato sia rispettabile in quanto lo rispetta per primo. Io non parto dal presupposto della fiducia del privato a prescindere, non penso che il privato sia un bene a prescindere, penso che ci sia un ambito regolamentare in cui abbattendo la sfiducia reciproca si coopera meglio a creare fiducia, e questo è il punto di fondo. Io voglio soluzioni che creano fiducia invece che siano con la pistola puntata, perché la pistola puntata serve a poco, questa è la mia opinione. Detto questo, adesso abbiamo il minuto sulle informazioni della circolazione stradale e poi riprendiamo con altre voci dell'opposizione. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando del piano governo territoriale approvato dal Consiglio Comunale di Milano. Abbiamo tentato di farvi capire anche chi non è naturalmente un addetto tecnico o un esperto di pianificazione territoriale di architettura urbana, insomma, quali sono i punti maggiori di discontinuità. Abbiamo con noi l'assessore Masseroli, abbiamo sentito la voce di Enrico Fedreghini, il capogruppo dei Verdi al Consiglio Comunale di Milano. Sentiamo adesso quella del capogruppo del PD, Pierfrancesco Maiorino. Buongiorno Maiorino. Buongiorno a tutti. Allora, condivide intanto questo giudizio sul fatto che c'è stato un confronto vero, costruttivo, nel rispetto naturalmente dei ruoli, per cui poi l'opposizione vota no, ma insomma che c'è stata una discontinuità significativa? E se dovesse dire, oltre a questa domanda, dal suo punto di vista che cosa invece resta ancora insoddisfatto per voi come bisogno maggiore? Ma io condivido, devo dire, in parte questa valutazione edulcorata, nel senso che in realtà sono stati 7 mesi di confronto aspro. I risultati che abbiamo portato a casa nel miglioramento del piano non ce li hanno certo regalati, perché abbiamo dovuto fare 7 mesi di ostruzionismo, e questo penso che sia il primo punto da cui partire. Ci sono ancora alcune pericolose ambiguità, le stavate fotografando molto bene nello scambio con l'ascoltatore intervenuto da Santa Giulia, perché il punto è che se poi quel privato che giustamente viene coinvolto, io dico per fortuna e finalmente, nella gestione, nella programmazione, nell'intervento realizzativo sui servizi, i servizi non li fa, il rischio è che quel quartiere l'asilo non ce l'ha, non è che stiamo parlando solo di bei principi, bisogna capire quali sono i vincoli grazie ai quali poi non ci perda la collettività e la comunità. No, è lì prima ancora dei servizi, non la interrompo, ma è solo per far capire poi perché sì. A Milano c'è tanta gente oggi, lì si tratta di capire innanzitutto se io ho comprato casa lì e mi dicono che c'è una falda freatica, l'acqua, quello che si legge oggi sui giornali che lì c'è di tutto, cancerogeno, parlavamo con l'assessore, rischi addirittura la fecondità, io vorrei capire se poi mi trovo ad aver comprato una casa e poi mi bevo acqua di quel tipo, cosa che non è chiara alle giornali di oggi. Guardi, al di là dell'aspetto specifico di Santa Giulia, su cui sono d'accordissimo con lei, e in relazione all'esempio che faceva l'ascoltatore rispetto al rapporto tra pubblico e privato, questa idea di un privato che non subisce, diciamo così, una pianificazione antica dall'alto, certo, è molto, secondo me è molto positiva, perché può dar vita a una cooperazione. L'importante però è che la cooperazione, come dire, sia regolata da regole e da garanzie, affinché poi il privato a un certo punto non smetta di intervenire e l'unica cosa che non si fa sia proprio, non so, l'asilo piuttosto che il servizio per la collettività, e ci troviamo solo dei palazzoni vuoti destinati a uffici, certo, che nessuno usa, che è un po' il problema di questi anni che Masseroli ha ben presente. E poi c'è un altro tema, che è quello di come l'indice generato e utilizzato dalla perequazione non porti a una cementificazione impazzita della città. Cioè, Masseroli prima giustamente diceva, il privato viene a sapere dal comune dove può costruire e lì costruisce. Allora però il comune deve identificare delle aree che non consentano un ulteriore appesantimento di cemento in alcune zone della città. Ma quello che non lo convince, o che è un interrogativo aperto, è che non sia giusto farlo in, in termini evolutivi nel tempo, e invece bisognava farlo come si faceva un tempo, tutto e subito, a prescindere da quello che succederà negli anni. E questo quello che... Io credo che sia giustissimo il principio di un dinamismo nel tempo e di una verifica delle necessità, sia fondamentale, ed è fondamentale, io credo, abbandonare l'idea che ci mettiamo in consiglio comunale 8, 9, 20 mesi e pianifichiamo dall'alto la costruzione della città dei prossimi 20 anni, spiegando in ogni via cosa deve accadere. Sono ben contento che ci siamo lasciati alle spalle quella stagione, però dobbiamo dall'altra usare delle garanzie per evitare che in alcune zone già particolarmente densificate, come si dice nel piano, si costruisca ancora, e queste garanzie per noi non ci sono ancora sufficienti. Adesso vedremo, la fase certo. che si apre è molto ricca in realtà, io mi auguro che i cittadini vi partecipino. Ah no, ma abbiamo spiegato che siamo all'inizio di un processo di pieno coinvolgimento, quindi non è una cosa che lì è stabilita, ferma, eccetera, quindi la città è chiamata a partecipare. Assessore, tra l'altro mi pare che comunque punti di vista nuovi, anche nella sinistra, pensavamo prima a quello che dice per esempio Violante con la sua fondazione su questi temi recentemente, insomma, per questo dico attenti a chi, voi che non siete di Milano, perché c'è del nuovo nell'impostazione proprio di come si fa regola pubblica, perché non è che si abdica, assessore. Io sono rimasto colpito dall'intervento di Violante come di quello di Tremonti, del resto questa fondazione a cui sono stato invitato a un convegno a Roma, peraltro Violante ha recentemente partecipato a una conferenza dell'ANCE dove ha proprio dichiarato in modo esplicito questa volontà di spingersi verso maggiore liberalizzazione con poche regole che comunque consentano da un lato la creatività degli operatori e dall'altro il controllo. Il tema del controllo è un tema essenziale. Qual è il problema delle nostre amministrazioni? Che si fermano tutte sul controllo ex ante, cioè sul processo amministrativo, per cui sono tutti diventati espertissimi di processi amministrativi e si consuma tutto il tempo e l'energia lì, e non c'è più nessuno che controlla dopo l'efficacia di quello che lì c'è scritto. Esattamente. Allora togliamo il controllo prima e stressiamo fortemente il controllo dopo, perché noi vogliamo nel mentre, perché questo significa appunto sia fiducia che maggior certezza del risultato. Poi ci dobbiamo allargare, perché allarghiamoci al Consiglio Comunale, c'è una voce che io da come ho letto, il che è stata quella proprio più decisamente alternativa, cioè, quindi sicuramente non chiederei all'interlocutrice con cui concludiamo il nostro giro d'opinioni un giudizio come l'ho chiesto agli altri rappresentanti dell'opposizione, perché insomma diciamo dei 1400 erano più o meno emendamenti, più di 600 erano i suoi e della sua lista. Abbiamo Milly Moratti, che è capogruppo Milano Civica al Consiglio Comunale di Milano. Buongiorno signora Moratti e grazie. Buongiorno. Allora, riusciamo dal suo punto di vista, in poche parole, ma a dire come e perché lei è totalmente insoddisfatta invece? No, spero che mi lascerà il tempo che ha lasciato agli altri. No, perché io non parto dal presupposto che tutti hanno lo stesso tempo, e questo è evidente. Ve lo dichiaro, benissimo. Guardi proprio... Benissimo. Allora, prima di tutto non sono miei, ma sono, a parte dell'appoggio di altri due colleghi molto attivi, cioè Pino Landogno e Patrizia Quartieri, sono il frutto proprio dei cittadini, dei comitati di cittadini, di professionisti, che ci hanno dato una mano, perché tutta questa roba ci è arrivata sul tavolo il 23 di dicembre e il 4 di gennaio dovevamo deporre gli emendamenti, consegnare gli emendamenti. Quindi le vacanze di Natale noi le abbiamo passate così, noi e un po' di cittadini. Sono un'espressione dal basso proprio quegli emendamenti. E volevo dire che a mio parere, dunque, come dice il parere dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, questo non è un piano urbanistico. È un piano economico e fin qui niente di male, potrebbe essere assessore al bilancio, il nostro Masseroli, andrebbe benissimo. È che purtroppo si tratta di un'economia vecchia, cioè quella slegata, già vecchia, quella che ha portato purtroppo alla crisi, quella slegata al prodotto vero, in questo caso la casa, e più legata alla transazione finanziaria. Infatti forse non abbiamo spiegato che questo meccanismo della perequazione, che tra l'altro decide di inventare dei volumi che non c'erano su una zona che è dichiarata agricola per legge del parco, che è il Parco Sud, e non credo che lo facciamo per regalare ai contadini una ricchezza in più, perché potremmo tranquillamente destinargli le risorse dell'Expo, allora, visto che l'Expo è sull'alimentazione. No, noi inventiamo questi volumi che poi possono devono, se utilizzati, essere portati su Milano. Quindi una grande massa di volumi che però verranno depositati attraverso un meccanismo di una borsa in cui verranno transati. Questo soggetto borsa non l'abbiamo ancora definito, quindi il rischio anche di avere adottato uno strumento senza sapere il meccanismo fondamentale attraverso cui queste risorse volumetriche potranno anche non trovare mai la luce, potranno anche avvilupparsi solo in transazioni. Cioè, paradossalmente ci sono i due pericoli: di arrivare fino a 100 milioni di metri cubi in più su Milano, oppure a niente, perché possono essere solo transati e costituire un bene sicuramente che può servire anche a bilancio, ma un bene che non è il prodotto finale. Ecco, da questo punto di vista vediamo da dove parte il piano. Parte dall'idea, 10 regole per Milano, abbiamo discusso 3 anni fa, che arrivino nuovi cittadini, almeno ritornino i 400.000 che se ne sono andati. Sì. Ma i 400.000 hanno lasciato molti spazi vuoti, quelli in cui vivevano, quelli in cui lavoravano. Adesso poi purtroppo la crisi fa chiudere negozi, attività commerciali, uffici si concentrano. Quindi lei dice usiamo quelli. Prima di tutto bisogna assolutamente, li vedete le pagine dei quotidiani, ventine di pagine di transazioni immobiliari. Ma lei vede l'idea transazioni immobiliari come se vedesse più o meno la coda di Belzebù. Transazioni immobiliari sono la maniera attraverso cui milioni di persone realizzano l'incontro tra domande e offerte, o no? O c'è qualcosa di... Niente, ma esattamente. Le voglio puntualizzare che io vengo da una famiglia di costruttori. Sì, è abbastanza noto. Ecco. No, non è tanto noto, ma io amo il mattone, tanto per sgombrare il terreno da ogni... Purtroppo da un mercato come quello dei Nasdaq, che anche quello conosco bene perché vengo proprio da scienze dell'informazione, che purtroppo ha spostato proprio quello che diceva lei, la transazione. Signora Moratti, io in questo caso devo, ohimè, non solo spostare, ma siccome sono le 10, quindi io prometto con lei una riparazione, che devo dire, perché se ci perdiamo nel Nasdaq, guardi che il capogruppo dei Verdi del PD hanno parlato, posso dirle, 1 minuto e mezzo meno di lei, però se ci perdiamo nel Nasdaq, ma io lo dico con rispetto, perché so quanto profonda e radicata sia l'operazione che insieme alla sua lista fa a Milano, non mi resta che ringraziare l'assessore Masseroli, i rappresentanti dell'opposizione, sperando di essere riusciti a interessarvi comunque per una roba di cui torneremo, perché secondo me è un banco di sviluppo per come cambiare gli strumenti di governo territoriale, non solo a Milano, ma in tutta Italia. Bene, a domani.